su quella amena collinetta, amena collinetta, libera pastorella, pastorella, l'agnella pascolar, l'agnella pascolar, a pascolar, a pascolar. Me comerai su quella amena collinetta, libera pastorella, pastorella, l'agnella pascolar, l'agnella pascolar, a pascolar, a pascolar. Forzalla se te in sponda, potrem nel ruscelletto, potrem nel ruscelletto, senza temer che l'onda, che l'onda, quella pro avvelenar, avvelenar, avvelenar. Me comerai su quella amena collinetta, amena collinetta, libera pastorella, l'agnella pascolar, a pascolar, a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar, l'agnella a pascolar.